Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Vernici che cadono, corpi ricoperti di colore, un vortice di passi di danza ispirati alla tradizione Apache, calci, abbracci, acrobazie e una tensione erotica palpabile. Stile melodico, energia e una vaga malinconia che è impossibile ignorare, tutto questo e molto altro è il videoclip di Try, il singolo di Pink che ha lanciato ufficialmente il 10 ottobre 2012 e che vede la star americana spopolare ovunque. Fare questo video è stata la cosa più divertente della mia carriera. Avrei voluto non finisse mai. Non c'è rete che non lo trasmette. Non c'è locale con un video acceso che non lo passi in continuazione. Lei, Pink, la protagonista, è vestita pochissimo, slip, canotta trasparente. Ha i capelli biondi tagliati cortissimi, un ciuffo verde che le copre in parte il viso e si muove senza inibizioni. Si passa da un esterno deserto a stanze vuote. E con lei c'è il ballerino attore Colt Prez. Sincronia perfetta, salti degni di uno stuntman e prese particolarmente complesse. Non è stato facile girarlo, né per loro né per la regista Floria Sigismondi, ma il risultato è strepitoso. Se lo scopo di un video è quello di amplificare il successo di una canzone, questo ce la fa alla grande. L'abbiamo girato e mentre giravamo non avevamo la percezione di quello che sarebbe diventato. Mi sono allenata moltissimo e avevo un partner veramente bravo che sapeva come prendermi, letteralmente. Soprattutto le prime volte, quando avevo sempre paura di cadere. Ma alla fine è andata e quando abbiamo visto il risultato, wow, era veramente una cosa pazzesca. Pink come rosa, scritto come il colore, come lo leggiamo. Ma anche scritto in una versione alternativa, con un punto esclamativo al posto della I. Un vezzo, una stilizzazione che rimanda alla grafica e ai tag della street art. Il personaggio di Tecna, una delle fatine Winx, è ispirato proprio a lei. Pink è una ragazza come tante, che in partenza è stata più sfortunata di molte, ma oggi è una star internazionale. A soli 34 anni, la ragazza col fisico da maschiaccio che non le manda a dire a nessuno ha venduto oltre 40 milioni di album, per un totale di più di 70 milioni di singoli. Grintosa, arrabbiata, strafottente, così diversa dalle pop star della sua generazione, Pink ha ricevuto apprezzamenti dal pubblico quanto dalla critica. Nel suo curriculum si contano 5 MTV Video Music Award e ben 3 Grammy, mentre uno dei suoi brani più famosi, So What, si è classificato 12° nella classifica dei singoli più acquistati digitalmente di tutti i tempi. Oggi ho messo su famiglia e sono una mamma innamorata della sua bimba. Ma questo non significa che io sia cambiata. Rimango la ragazzaccia di sempre. Dico le parolacce, urlo e occhio a non farmi arrabbiare perché spacco tutto. Il mio spirito è punk e rimane punk. Pink, capello corto, fisico tonico e muscoloso e discorsi intrisi di parolacce, si diverte a cavalcare la sua moto infischiandosene di quello che secondo molti dovrebbe invece fare una ragazza per bene. Ma d'altronde lei per bene non lo è mai stata. Insulti alla polizia, arresti, droga, insomma non si è fatta mancare niente. Tutto comincia l'8 settembre del 79 quando Alesha Beth Moore viene al mondo. Siamo a Dolistown, Pennsylvania, poche miglia da Filadelfia. Un posto come tanti della provincia americana, fatto più che altro di lunghe vie residenziali con villette simili tra loro, prati perfettamente tagliati, con il vialetto che porta al garage. Alesha abita in una di queste case con papà, mamma e il fratellino. James, suo padre, è un veterano del Vietnam che ha sempre avuto la passione per la musica. È lui che la trasmette alla figlia. Alesha cantava in continuazione, in casa, nei viaggi in macchina. Era tutto musical. E ogni tanto si impuntava sulla stessa canzone. Io le dicevo, per favore, potreste almeno cambiare canzone. Cambia canale ogni tanto. E lei mi rispondeva, papà, sto facendo pratica. Un giorno sarò una star e devo allenarmi già adesso. Beh, comunque non è che James ne sia scontento, anzi, è lui che spesso la porta con sé quando va nei locali di amici a esibirsi in qualche ballata che ha scritto lui stesso. Ha cominciato a dedicarsi ai testi per hobby, quando è tornato dal Vietnam, e spesso le sue canzoni parlano proprio dell'orrore della guerra che ha vissuto. Come I've Seen the Rain, che canta in coppia con sua figlia quando è ancora giovanissima, una bambina. Lei ha imparato il pezzo e l'abbiamo cantato insieme diverse volte. Non so quanto effettivamente potesse capire delle parole, quanto potesse immedesimarsi. Se i primi anni di vita di Alesha sono molto sereni, presto la situazione precipita. I suoi genitori, esasperati dai continui litigi anche davanti ai figli, finiscono per divorziare. Papà James se ne va di casa e i ragazzi vengono affidati alla mamma, un vero trauma per la futura Pink, che senza suo padre accanto diventa prima triste e poi sempre più ribelle. Sua madre, che non c'è mai perché esce la mattina per andare a lavorare e torna la sera tardi, non ha tempo di occuparsi di lei e finisce per concederle tutto quello che vuole. Più facile che prendersi le proprie responsabilità, la accusa il suo ex marito, ma ormai il giudice ha deciso a chi tocca vivere con i figli e resta poco da fare. Fatto sta che Alesha inizia a frequentare le classiche cattive compagnie. Lei è una ragazzina, loro ragazzi più grandi che vanno a prenderla a scuola e le offrono droga. Vivevo in una città piccola e la polizia non ci ha messo molto a scattarmi una foto per schedarmi insieme agli altri ragazzi. Giravano la sera e ci chiedevano: cosa stai facendo qui? Perché non te ne vai a casa? Fammi vedere cosa hai in tasca. Prima marijuana, poi ecstasy alle feste e qualche altra sperimentazione un po' più pesante. Il rapporto di Pink con le droghe dura qualche anno, mentre il suo look si fa sempre più trasandato e anticonformista, con lunghe treccine colorate che le arrivano fino in fondo alla schiena. Con la musica non ha smesso, anzi, resta il suo primo amore. In evidente contrasto con il suo stile di vita e con il suo aspetto, canta gospel in una chiesa frequentata solo da persone di colore. Lì impara i segreti del blues e le piace moltissimo intrattenersi fino a tarda notte insieme ai chitarristi del coro circondati dal silenzio. Intanto i suoi amici fuori commettono piccoli crimini e trovano soldi per la droga rapinando negozi della città. Ha 14 anni, ma le esperienze che sta vivendo la fanno maturare in fretta. Con il solito gruppo il venerdì va a Filadelfia a scoprire locali e techno music. È tutta un'altra cosa rispetto alla noia di Doylestown. In città sembra di essere al centro del mondo. Suo padre non è d'accordo, non sa ancora della droga, ma non crede che mandarla nei club alla sua età sia una buona idea. Di certo lei non è un tipo che accetta un no come risposta e continua a farlo di nascosto. Non me ne importava niente di niente dei miei, nemmeno di mio fratello, di nessuno. Volevo solo divertirmi e non pensare al mio futuro. Però avevo un sogno, sfondare nella musica. E facevo di tutto, come da bambina, per realizzarlo. C'è un club a Filadelfia dove Pink e i suoi amici vanno sempre. Si chiama Fever. Prevalentemente mettono techno, ma c'è anche una hip-hop room. È un locale easy, senza obbligo di vestirsi in nessun modo particolare. E basta salire sulla pedana per parlare col DJ. La notte del ringraziamento del 95, mentre tutte le buone famiglie americane stanno sedute intorno a una tavola imbandita a mangiare tacchino ripieno, al Fever, Alesha Moore prende in mano il microfono e chiede di poter cantare qualcosa di Mary J. Blige. Gesto a dir poco coraggioso per una ragazzina arrivata dalla provincia che dovrebbe esibirsi di fronte a un pubblico di gente di colore che di hip hop se ne intende parecchio. Il DJ, forse anche per proteggerla, all'inizio dice di no, ma lei neanche a dirlo va avanti per la sua strada. Risultato, gli strappa il microfono e canta davanti a una folla entusiasta. Grandi applausi, urla, complimenti e il DJ che le offre il palco centrale per la sera dopo. Mi sembrava incredibile. Tutta quella gente abituata a sentire Mary J. Blige, gente così, che stava applaudendo proprio me. Da quella sera con le droghe ho smesso. Ho deciso che era importante farlo per potermi concentrare solo sulla musica. Sera dopo sera, i locali di Filadelfia cominciano a far girare il suo nome e presto Pink, che ancora si fa chiamare col suo nome di battesimo, si ritrova con un'agenda piena di appuntamenti. Ci mette davvero poco a diventare la regina della disco dance. Nella zona ormai la conoscono tutti. E una sera in un club arriva la prima grande occasione. Un talent scout la nota mentre è sul palco e le propone di entrare in una band tutta al femminile, le Choice. Le Choice fanno R&B, sono tre ragazze carine, più o meno della stessa età, e hanno tutte le carte in regola per sfondare. Incidono un demo e attraverso questo agente che le ha appena messe insieme, cercano la strada più breve per arrivare sui tavoli delle case di produzione. Il miracolo, o forse basta chiamarlo semplicemente destino, avviene presto. Siamo a un magnifico incontro di Pink, quello con L.A. Reid. Stavo camminando giù nel salone dell'ufficio. E sono passato davanti a una delle mie assistenti che stava ascoltando un demo tape. Insomma, le ho chiesto cosa stai ascoltando e lei mi ha risposto Choice. E cos'è? Ma sì, sono tre ragazze bianche che fanno R&B. E io sono rimasto impressionato, davvero. Avevano delle voci talmente potenti. Insomma, io vengo dalla musica black, mi aspettavo tre ragazze di colore. E allora lei mi ha fatto vedere la foto e io ho detto... Oh mio Dio, puoi dire a queste ragazze di venire qui? Ed è così che è cominciato tutto. L.A. Reid, compositore e produttore di Cincinnati, è abituato ad avere tra le mani talenti. Nell'89, insieme al suo amico Kenneth Babyface Edmonds, ha fondato l'importantissima casa discografica La Face Records e da quel momento non si è più fermato. Giudice della prima e della seconda edizione americana di X Factor, a lui si deve un grosso contributo al successo di un bel po' di star. Avril Lavigne, Usher, Outkast, Dido, Rihanna e per ultimo il teen idol Justin Bieber, giusto per citarne alcuni. Ma Pink è senza dubbio uno dei suoi esperimenti meglio riusciti. Ecco quello che è successo. L.A. Reid, dicevamo, sente il demo delle Choice e dice alla sua assistente di chiamare le ragazze ad Atlanta dove ha sede la Face Records per un provino. Loro ci mancherebbe, non se lo fanno dire due volte, e tre giorni dopo sono nel suo ufficio. Sono venute nello studio, hanno messo le cuffie e hanno cominciato a cantare per me. Tutte e tre le ragazze erano veramente brave, però devo dirlo, l'ho notato subito che Alesha aveva qualcosa di speciale. Aveva veramente una marcia in più. E comunque è finita che io le ho fatte firmare. Hanno firmato un contratto tutte e tre. Le Choice sono legatissime tra loro. Lavorano e vivono insieme, si danno consigli, sono come sorelle. Per Pink i due anni ad Atlanta, passati tra le feste con le ragazze e la sala d'incisione, sono davvero un periodo magico, indimenticabile. A una festa organizzata da Reid sono invitati a esibirsi tutti i suoi pupilli. Naturalmente vanno anche le Choice, ma la loro performance non lascia il segno. Sono poco decise, non convincono. Sempre di più in parallelo viene fuori la grinta di Alesha, che è davvero una spanna sopra le altre due. Le ragazze non avevano spaccato quella sera, per niente. Ma quella ragazza, quella Alesha, lei sì che mordeva. Ed è stata quella notte, in quel preciso istante, che ho capito quello che già dal provino avevo intuito, che lei sarebbe stata più forte da sola. Amici Destini. Non le piacciono proprio le ragazzette stupide a Pink, quelle biondine per bene che fanno tutto ciò che si addice a una signorina, no. Lei al secolo Alesha Bettmore ha fatto dello spirito da maschiaccio uno stile di vita. Si è innamorata della musica da piccola e da quel momento non l'ha più lasciata. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Billy Joel, Guns N' Roses, Green Day e Tupac. È questo che ha sempre ascoltato nelle cuffie mentre camminava per strada o nei club con gli amici. Intanto, giovanissima, ha conosciuto la droga e ha fatto diversi lavoretti per sbarcare il lunario, come la cameriera in alcune catene di fast food e i turni di notte in una stazione di servizio. La scuola non era proprio il mio forte. Avevo in mente tutt'altro. La musica, i club. Volevo divertirmi e cercavo di diventare qualcuno. Ribelle, arrabbiata e poco rispettosa delle regole, si è ritrovata in una band al femminile, le Choice, ma era evidente che lei avesse una marcia in più delle altre due. E così il produttore L.A. Reid le ha proposto di cominciare una carriera da solista. Beh, proposto. In realtà le dà proprio un ultimatum. O provi a fare la solista o non se ne fa niente. La chiamano già Pink per Mr. Pink nelle Iene di Tarantino. E così lei sceglie questo come nome d'arte per il debutto. Mr. Pink is like the smart, sassy. Mr. Pink è smart, sexy, brillante. Mi sono divertita fin dall'inizio a giocare con il mio nome ed è partito da Pink anche il mio giocare con i capelli. Li ho veramente tinti di ogni colore. Ho cambiato taglio e ciuffo. Mi sentivo come una specie di folletto ad apparire in pubblico ogni volta in modo diverso. Al momento del debutto come solista, il mercato è invaso dall'esplosione di pop star come Britney Spears e Christina Aguilera. Leggere, per teenager, caramellose a tratti, pur non senza la malizia di chi sa essere sexy. Pink, col suo stile aggressivo, il look maschiaccio e i capelli cortissimi e colorati, va in una direzione completamente opposta. È anche parecchio più ingenua, nonostante sia una ragazza sveglia. Non sa come funziona la potente macchina del marketing. Siamo nel 2000, quando esce il primo album di Pink dal titolo Can't Take Me Home. Immediatamente il suo talento originale e l'aiuto in fatto di immagine di quel genio di Reid la fanno balzare ai primi posti della top 10 con due singoli, There You Go, che diventa disco d'oro, e Most Girls. Mi sono accorta che la musica conta meno della metà. Non immaginavo che ci fosse così tanto business di mezzo. Non immaginavo c'entrasse persino la politica. Dopo due singoli fortunati è la volta di You Make Me Sick, che dopo pochi mesi diventa un vero e proprio successo, anche grazie al fatto che il pezzo viene usato nel film Save the Last Dance, una ragazza bianca che impara a ballare l'hip hop nei club. Praticamente la sua storia. Guess it was pretty tough, leaving all your friends, and to say all those goodbyes. Cool outfit. Slam it outfit. Sarah, how you get your leg to twist like that? I used to dance. You used to dance. It's really not a big deal. I think it is. Una carriera che parte in fretta, un successo che arriva già dal primo album. È così che si può riassumere l'esordio di Pink sulle scene internazionali. Già, internazionali. Perché dopo l'America, la ragazza ribelle della Pennsylvania conquista il mondo a partire dalla nomination agli MTV Music Award del 2001 come migliore artista esordiente. Niente male per una che la sera in un club ha preso in mano un microfono e si è messa a cantare un pezzo di Mary J. Blige. Certo, è un peccato che le altre due componenti delle Choice in quella sua rapida ascesa siano rimaste indietro. Sentivo ancora le Choice. Volevo bene alle ragazze. Abbiamo condiviso molto, abbiamo iniziato insieme un'avventura. Però devo dire che aveva ragione Reid. Il successo è arrivato per me da sola ed è stato pazzesco. La prima volta che ho visto una folla che mi aspettava sotto la finestra di un programma di MTV in cui sarei stata ospite, ho pensato, Wow, ma veramente tutte queste persone sono qui per me? Beh, era veramente così. Pink è unica nel panorama della musica femminile di inizio millennio ed è sicuramente anche per questo che due magnifici destini, Rock Wilder e Missy Elliott, pensano a lei per un ambizioso progetto. Rifare sotto forma di cover contemporanea la celeberrima Lady Marmalade, hit del 75 cantata da Patti LaBelle. Non è un progetto campato per aria, anzi, i due lungimiranti produttori sanno benissimo che potranno giocarsi questa carta come vincente operazione di marketing. Ecco com'è andata. La grande rapper tuttofare Missy Elliott, che passa con disinvoltura dal palco allo scouting, dalla composizione alla produzione, ha appena fatto uscire il suo album Miss E So Addictive, raffinato, pieno di pezzi in cui l'influenza dei club si contamina con la dance. Insomma, un giorno Missy Elliott riceve una telefonata da Rock Wilder, anche lui produttore di grande talento, che le propone di rifare questa canzone in cui la protagonista canta maliziosamente «Voulez-vous coucher avec moi ce soir?», che starebbe per «Vuoi venire a letto con me stasera?». La signora del rap, neanche a dirlo, dice subito di sì, e i due si mettono al lavoro. Ho ricevuto questa chiamata dal mio agente, che mi chiedeva se volevo fare una canzone. Un remake di una vecchia hit, Lady Marmalade. Poi mi ha anche detto che ci sarebbe stata anche Christina Aguilera e io ho detto, e io cosa c'entro con lei? Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in a glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna enche, enche, ay, ay. Come on, mocha chocolata. What? Rio Lady Marmalade. In Lady Marmalade, oltre a Pink, a cantare ci sono Mia, Lee Kim, autrice della parte rap del testo, e la famigerata Christina Aguilera, che rispetto alla nostra Alesha è proprio agli antipodi. Le due non se le mandano a dire, litigano in sala prove, per non parlare di quanto è difficile gestire le quattro figure insieme sul palco. Era insopportabile, capricciosa, viziata, prima donna. L'idea di Missy Elliott era che fossimo quattro donne diverse, con pari rilievo. Ma lei faceva di tutto per emergere, voleva sempre essere più protagonista di noi. La canzone parla di una donna conosciuta come Lady Marmalade, appunto, che cerca di sedurre un uomo per le strade di New Orleans, Louisiana, tra gli angoli bui e le note del jazz. Già rifatto dalle All Saints nel 98, il brano ha una lunga storia ed è stato ripreso anche da un tram chiamato Desiderio, dove a pronunciare Voulez-vous coucher avec moi ce soir è il personaggio di Blanche DuBois. Lady Marmalade di Rock Wilder e Missy Elliott viene scelta per la colonna sonora di Moulin Rouge e adattata in alcune sue parti per essere più in sintonia con l'atmosfera parigina del film. Il singolo approda immediatamente al primo posto e rimane in classifica per diverse settimane. Nel video, uno di quei video entrati nella storia, le quattro cantanti sono sul palco del Moulin Rouge ed eseguono la loro performance vestite di lingerie sexy vintage, con trucco pesante e acconciature improbabili. Sono sensuali e aggressivi allo stesso tempo, delle ballerine di Pigalle in chiave contemporanea. Risultato, Lady Marmalade è il miglior video dell'anno e il miglior video da un film, e in più conquista un Grammy come Best Pop Collaboration. Ma non basta. Quando le ragazze durante gli MTV Movie Awards del 2001 ricreano live lo show del video, è il tripudio. Fisicamente, e anche come temperamento, ero di certo la più mascolina del gruppo. Però mi sono trovata subito bene con quei vestiti. Mi sentivo a mio agio e sexy. Era il mio momento d'oro. Mi sentivo apprezzata, appagata e felice. Il debutto di Pink sulle scene è sfavillante. Grande successo, un Grammy, due MTV Music Award. Sta bene, si sente felice, appagata. Ha tutto quello che ha sempre desiderato. Ma poi, piano piano, il suo stato d'animo comincia a cambiare. Sente che non ha mai fatto niente da sola, insomma, l'hanno buttata dentro le Choice, poi L.A. Reid, a cui sarà eternamente grata, l'ha fatta sfondare come solista con una studiatissima operazione di marketing. E con Lady Marmalade erano in quattro, ognuna ben conscia di quanto sarebbe stato importante esserci. Adesso però Pink vuole camminare con le sue gambe, vuole scrivere i suoi pezzi, a dimostrare che vale qualcosa al di là dell'immagine che si è creata. Pink è pronta per voltare pagina. Too much. I'm crying here. What? I Magnifici Destini. Pink è una ragazza in gamba, diversa da molte pop star della sua generazione che hanno cominciato come teen idol, Britney Spears, Christina Aguilera. Ecco, lei è tutta un'altra cosa. Siamo nel 2001. Alesha Beth Moore, questo è il suo vero nome, ha già avuto grande successo col suo album d'esordio, guidata dal produttore L.A. Reid. E ora tutto il mondo la conosce per avere partecipato alla cover di Lady Marmalade, entrata a far parte della colonna sonora di Moulin Rouge. Sempre di più, però, sente il bisogno di dimostrare quanto vale prima di tutto a se stessa. È stanca di dipendere sempre dagli altri. Ha bisogno di qualcuno che le faccia da guida, ma che la lasci libera di esprimersi pienamente. Questo qualcuno è un magnifico destino e si chiama Linda Perry. Io ero cresciuta ascoltando le canzoni di Linda. Era il mio mito fin da quando ero una ragazzina. È stato ovvio per me pensare subito a lei per una collaborazione. Certo, non mi sarei mai aspettata che mi dicesse di sì. Linda Perry è una donna a cui piace lavorare con le donne, senza rivalità, con la pura voglia di condividere. Ha lavorato con Christina Aguilera, Alicia Keys, Courtney Love, Gwen Stefani e anche con la nostra Giusy Ferreri, uscita come vincitrice da X Factor 2008. Alle spalle la Perry ha una lunga carriera come musicista, iniziata negli anni 90 quando era la leader del gruppo Four Non Blondes e portata avanti da solista. Quando incontra Pink, Linda ha appena cominciato a fare la produttrice e a scrivere canzoni per altri. Altre artiste, soprattutto. Lei e Pink iniziano a lavorare insieme ogni giorno in cerca del giusto suono e di parole abbastanza potenti da diventare un successo, ma senza scadere troppo nel commerciale. Nasce Get the Party Started, in testa alle classifiche di diversi paesi, che fa da traino all'album Misunderstood, dal quale vengono estratti anche i singoli Don't Let Me Get Me, Just Like a Pill e Family Portrait. Linda, con tutti i suoi tatuaggi e i suoi pantaloni di pelle. Che mito. Abbiamo passato insieme dei bei momenti. Lei mi ha insegnato ad ascoltarmi, a cercare dentro di me quello che volevo dire, a esplorare il mio sound per farlo uscire. Fino a quel momento non avevo mai ripensato alla mia infanzia, per esempio. Linda mi ha aiutato a raccontarla attraverso la mia musica. Abbiamo scritto Family Portrait. Aveva centrato l'obiettivo. E non me ne importava niente, anche se Reed non era d'accordo. Misunderstood è la consacrazione. Nel 2002 diventa il secondo album più venduto in Gran Bretagna e trasforma Pink nell'artista femminile che globalmente ha venduto più dischi quell'anno. Solo negli Stati Uniti il disco vende più di 5 milioni di copie, per un totale di oltre 12 milioni in tutto il mondo. Intanto anche la vita privata della cantante ha uno scossone. Fino a questo momento non si poteva parlare di uomini, tutti stupidi, non ne vale la pena, non mi sposerò mai, ma poi Pink incontra il campione di motocross Kerry Hart e cambia tutto. Amore a prima vista, vanno a vivere insieme, si sposano nel 2006 con una cerimonia sulle spiagge della Costa Rica, litigano in continuazione, il matrimonio dura appena 2 anni, poi nel 2008 si separano, ma non ce la fanno a stare lontani troppo tempo. Si rimettono insieme e nel 2011 nasce la loro prima figlia, Willow Sage Hart. Ci siamo conosciuti ad una gara. Abbiamo parlato. A me le moto sono sempre piaciute. Così è cominciato tutto. Try Try This, il terzo album di Pink, viene pubblicato nel 2003. 8 delle 13 tracce vengono scritte dalla cantante insieme con Tim Armstrong dei Rancid. Arriva il secondo Grammy, ma non si può dire che i singoli estratti abbiano successo come i precedenti. In ogni caso, il brano Feel Good Time viene inserito nella colonna sonora di Charlie's Angels e Pink, ormai una vera star, va avanti per la sua strada. Avevo bisogno di allontanarmi da Reed per capire chi ero veramente. Ma poi ho dimostrato a me stessa che da sola potevo farcela. Era arrivato il momento di tornare da Reed, alla LaFace. Già, Reed, l'uomo che l'ha scoperta e che non se l'è presa più di tanto neanche quando nel video Don't Let Me Get Me ha visto la scena di Pink nell'ufficio di un manager discografico che le sta spiegando cosa va cambiato nella sua immagine. Insomma, quello che ha fatto lui con lei, per intenderci. Ma tant'è, dopo peregrinaggi vari, Pink torna a casa e incide I'm Not Dead. L'album contiene anche Dear Mr. President, un brano che è una lettera di accusa all'allora presidente degli Stati Uniti George Bush, e Stupid Girls, una vera hit mondiale. Non mi aspettavo proprio che sarebbe tornata da me. L'ultima volta che l'avevo vista era entrata nel mio ufficio urlando perché io non ero d'accordo che lei collaborasse con Linda Perry. Però ho anche ammesso il mio sbaglio, le ho riconosciuto che è stata brava. E forse lei in fondo sapeva che comunque su di me avrebbe potuto contare in ogni momento. E insieme poi abbiamo fatto anche Fun House e il Greatest Hits. Eccola qua, la conferma di essere una star. La pubblicazione di un Greatest Hits dopo 10 anni di carriera. Pink, la ragazza con i capelli dai mille colori, è cresciuta, ha imparato a conoscersi e ha scelto di raccontare se stessa. Anche se a vederla sul palco sembra sempre la stessa ribelle piena di energia che un venerdì notte in un club a 14 anni ha strappato il microfono di mano a un DJ e ha cominciato a cantare. Stand the sound.